Grazie a tutti i numerosi, siamo molto contenti di riprendere le attività della biblioteca del Centro Trevi con un ospite eccezionale che è il professor Guido Barbugliani. Questa sera presenterà il libro che vedete qui, Il giro del mondo in 6 milioni di anni, insieme al professor Felis. Con l'intendenza scolastica, infatti, ancora in settembre avevamo così iniziato, ideato un percorso chiamato Caffè Philosophique, con una linea più scientifica, e abbiamo così dedicato alcune serate, alcune iniziative proprio per stimolare la conoscenza, la lettura, la curiosità, il dibattito su quelli che sono temi più legati all'approccio scientifico, alla conoscenza scientifica. E quindi questa sera anche la presenza con noi del professor Barbugliani ci potrà essere di grande stimolo per approfondire delle conoscenze. L'abbiamo anche agganciata ad un tema che verrà riproposto poi nelle prossime settimane, legato alla Shoah e quindi a tutto quello che è il discorso razzista. Dunque, è un collegamento ideale, ecco, a tutta una serie di discussioni che apriremo in occasione poi della giornata della memoria. E colgo anche l'occasione per ricordarvi due appuntamenti che saranno precisamente il 24 gennaio, una giornata dell'indifferenza, 364 giornate dell'indifferenza, il nuovo libro di Federico Steinhaus, e poi il 28 gennaio, sempre alle 18, sempre in questa sala, ci sarà la presentazione di una tesi di laurea dedicata a Emanuele Longhi, un sacerdote di Bolzano che è stato rinchiuso e ha portato avanti un'opera di resistenza nel lager di Bolzano. Inoltre ricordo anche gli altri appuntamenti del Caffè Philosophique. Dopo questa serata ci ritroveremo il 12 di febbraio con un incontro con l'architetto Claudio Lucchin dedicato alla filosofia dell'architettura. Gli altri appuntamenti li trovate su volantini di questo genere o sui manifesti, ma anche sul sito della biblioteca, a cui siete invitati ad iscrivervi se volete avere costantemente degli aggiornamenti. E in particolare ricordo anche il corso gratuito di BiblioWeb che teniamo ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17. Il mio è uno spot doveroso, ma sempre dedicato alla cultura e alla promozione delle iniziative gratuite che la biblioteca mette in piedi, sempre con la speranza e la voglia di diffondere la conoscenza e soprattutto la libertà individuale di costruire un percorso e di avere la possibilità degli strumenti di lettura della vita reale. Grazie, ringrazio ancora il professor Barbugliani e ringrazio Andrea Felis che ci accompagna in questa preziosa serata. Grazie. Ecco, allora, grazie intanto a Valeria Trevisan della biblioteca Claudio Augusta, che tutti conoscete, quindi è una presentazione molto apprezzata perché ci permette di inquadrare anche un po' organizzativamente, ma anche concettualmente, quello che è lo spirito e il senso di queste serate che in questa seconda fase del Caffè Philosophique riprendono l'argomento della diversità e pensieri divergenti, dialogando in un ambito di confine, come è abbastanza, diciamo così, caratteristico di quello che è la riflessione contemporanea, che non si irrigidisce o cerca di non irrigidirsi all'interno di così assi troppo bloccati di riflessione e di ricerca critica, in cui soprattutto in questi ultimi periodi risulta particolarmente importante sottolineare un contatto storico che esiste, storico perché è fondativo, perché fa parte dello statuto di saperi, quello che è il dialogo che intercorre fittissimo tra sapere scientifico nell'ambito delle quelle che un tempo venivano chiamate le scienze positive, le scienze naturali, quello che è la riflessione della scienza che è fatta anche di numeri, di laboratori, di quantità misurabili, di verifiche, e quello che è l'ambito della riflessione critica, quello che è l'ambito della interrogazione argomentata, consapevole, razionale, intorno alle questioni che ci caratterizzano e che ci riguardano tutti come collettività, come persone e come individui. Ecco, sembra una indicazione così di carattere, oggi direbbero un po' alcuni molto in voga carattere buonista, ma perché pensare a creare ponti, creare relazioni, creare dialogo non è molto di moda. Il contesto contemporaneo sembra caratterizzarsi sempre di più da divaricazioni e forti contrasti, forti contrapposizioni che talvolta faticano a invece mettere in contatto, in comunicazione, modelli diversi di pensiero e pensieri differenti. Qui le differenze diventano un nutrimento stesso del dialogo e del confronto. Quest'anno, questa seconda parte del Caffè Filosofiche, che come articolazione interna giunge ormai alla 7ª edizione, perché insomma siamo abbastanza stagionatelli e ci hanno permesso nel corso del tempo di incontrare diverse articolazioni del pensiero contemporaneo, è con particolare piacere che presentiamo l'ultimo lavoro, in realtà il penultimo poi, di Guido Parculiani, che siete qui al mio fianco, una figura molto nota anche a molti presenti, è già stato ospite della città di Bolzano sempre con notevole successo, ma anche questa sera c'è un pubblico molto numeroso che ci conforta nel vedere che si tratta di modelli di pensiero importanti che avvicinano persone che provengono anche da esperienze culturali e teoriche molto differenti. Ci sono in sala scienziati, docenti, insegnanti di materie letterarie, scientifiche, persone che sono curiose, persone che sono anche come me semplicemente magari dei voraci lettori di letteratura antropologica, etnologica, paleoantropologica. Ogni tanto abbiamo delle malattie strane, per cui ho scoperto che abbiamo una passione comune del sito di Fumane vicino nel Grad di Verona, no? Che è uno dei posti secondo me più interessanti d'Europa in questo momento per andare a pensare non tanto sull'ancestralità, ma a pensare a quelli che sono dei luoghi di incontro di tempi storici talmente remoti che sembrano difficili da misurare, no? E di cui invece discipline come quelle di cui si occupa il genetista, che è il nostro ospite questa sera, ci permettono di comprendere, di capire, di decifrare, di trascrivere all'interno di qualcosa di assolutamente comprensibile e comunicabile. Devo fare permettetemi ancora di annoiarvi, 3 minuti, invece una serie di complimenti a Guido Parculiani, non solo come ricercatore scienziato che mi permette di descriverlo come, diciamo, un, adesso non so se lui sarà contento, uno Stephen Jay Gould nostrano, de Noantri sarebbe detto una volta, no? Perché sono stili di scrittura che è raro trovare nella tradizione della scrittura scientifica italiana, questo va detto. Io credo che molti di noi abbiano incontrato modelli di pensiero che riescono a trasformarsi in comunicazione efficace dentro ambiti di pensiero strutturato e di discipline scientifiche anche dai caratteri molto serrati, anche in un certo senso anche molto duri, non sono discipline soft, sono discipline hard, hanno degli angoli ogni tanto non tanto smussabili, ma riescono a presentarsi in una forma di grande comunicabilità solo se ci sono grandi capacità al fondo scientifiche, cioè di chi è in grado di avere compreso in profondità la propria disciplina e proprio per questo è in grado di restituirla anche con modalità che avvicinano lettori come posso essere io e forse anche diversi altri in sala, che magari messi alle prese con tabulati e grafici un po' più elaborati o provette di laboratorio, se rimarremo affascinati ma forse un po' lontani rispetto a quello di cui si sta parlando. Questa capacità di scrittura e di comunicazione è davvero qualcosa non solo di raro, di prezioso, ma anche qualcosa su cui forse sarebbe il caso di spendersi anche dal punto di vista delle pratiche collettive, anche magari delle scuole, magari anche delle università, perché molte volte le università non allenano le persone a scrivere in modo comunicabile. Avere scienziati di vaglia e anche pensatori di vaglia in contesti anche molto variegati, quali possono essere anche quelli dell'ambito filosofico in senso stretto, che sappiano essere comunicabili e anche arrivare a una divulgazione efficace, ecco, non fa esattamente parte di quello che spesso è il vocabolario utilizzato invece all'interno della nostra riflessione nazionale e nella quale ogni tanto fatichiamo a trovare anche risposte sul piano internazionale. La cultura scientifica italiana è una cultura di alto livello, di profonda struttura e articolazione, però molte volte è separata, è scissa, no? Da una parte c'è un livello molto alto di ricerca, di articolazione anche in ambito di laboratorio, di pratiche, si traduce in ricerca applicata, difficilmente riesce a essere poi comunicata e arrivare a un pubblico ampio e vasto. Naturalmente questo è un limite, un ostacolo perché non sempre permette di riconoscere in termini complessivi e generali il significato di quello che si sta facendo. Quello di cui si occupa Guido Parculiani sono discipline di frontiera, sono discipline di dialogo per definizione, perché quando parliamo di qualcosa che caratterizza l'essere umano, non la sua essenza, come avrebbe detto una lunga tradizione filosofica, sostanzialistica e metafisica, ma nella sua articolazione interna, anche biochimica, anche in quello che rappresenta la modalità con la quale l'essere umano, nella sua materialità, nella sua specificità, ma anche proprio come specie, per l'appunto, è in grado di protrarsi nel corso del tempo e di descriversi nel corso del tempo, rappresenta una sfida estremamente interessante, letta anche da angolazioni che non sono solo strettamente interne alla disciplina di cui stiamo parlando, ma che riguardano un po' tutti, perché riguardano poi gli effetti che queste riflessioni producono anche sul terreno collettivo. La reciprocità del riconoscimento, la capacità di vedersi e di leggersi come esseri umani, la capacità di leggere su distanze straordinariamente remote una prossimità che ci caratterizza. E questi sono elementi molto interessanti, soprattutto in epoche in cui si comincia a ritagliare nuovamente i linguaggi che abbiamo già sentito nel secolo scorso, delle differenze qualitative, queste sì essenzialistiche, tra gli esseri umani. Forse oggi non più utilizzando i paradigmi parascientifici delle dottrine tardo-ottocentesche di cui si nutriva il razzismo etnografico oppure il biologismo razziale, diciamo tra 8 e 900 fino agli anni 30, ma addirittura anche con strascichi un po' più tardi che ogni tanto riapparivano come un fiume carsico anche nella tradizione scientifica europea, ma oggi si parla in termini di una differenziazione qualitativa che ovviamente ogni tanto fa riaffiorare i vecchi spettri del vecchio razzismo. Quindi Barbujani di questi temi se ne è occupato in modo da scienziato, da persona che naturalmente si occupa di contesti disciplinari molto specifici, ne ha parlato in alcuni libri che già a suo tempo hanno fatto discutere in maniera molto interessante, l'invenzione delle razze, gli africani siamo noi, sono testi che hanno avuto anche una notevole diffusione, vengono anche spesso letti e discussi anche nel contesto scolastico, anche nel contesto educativo, e hanno offerto degli spunti veramente importanti per rendere estremamente leggibili alcuni elementi concettuali e culturali che ovviamente forse dovremmo tutti possedere quantomeno come una sorta di alfabeto base con la quale poter anche semplicemente leggere un quotidiano, saper prendere delle decisioni senza farci suggestionare da pregiudizi, da postulati indimostrabili che molte volte sono travestiti o camuffati da o falsa scienza oppure da non scienza o antiscienza che oggi viene addirittura rivendicata come altro modello di pensiero plausibile, verosimile. Ecco, quindi ci muoviamo all'interno di questo contesto. Naturalmente io chiudo, anche lascio la parola molto volentieri a Guido Barbujani. Io ringrazio tutte le presenti e presenti di essere convenuti questa sera, è un piacere. Come aveva già detto Valerio, ricordo i prossimi anche appuntamenti che invece si misurano con linguaggi differenti e che ci permetteranno di fare quest'ultimo cammino attraverso il confronto tra le differenze, sia con la riflessione in ambito di architettura, come sarà il prossimo incontro con Claudio Lucchin, che con la storia, la storiografia della differenza, e infine anche col pensiero alla differenza, così come articolato dal pensiero femminista italiano storico in una delle sue teoriche rappresentative, che è Francesca Izzo di Napoli, che ci anch'essa onorerà con la sua presenza, speriamo, raffreddori, influenze permettendo, che di cui sono afflitto anch'io. Quindi ecco, grazie ancora, buona serata, grazie ancora a Guido Barbujani. Mi alzo così. È difficile prendere la parola dopo queste introduzioni, perché io penso di aver fatto delle cose pazzesche per essere semplicemente all'altezza delle parole che sono state pronunciate. No, semplicemente intanto è un piacere ritrovarmi a Bolzano, è un piacere ritrovarmi a Bolzano con un computer e un proiettore che funzionano, perché l'ultima volta, forse qualcuno se lo ricorderà, abbiamo dovuto fare senza. Ma parleremo per 40 minuti, non di più, di 6 milioni di anni di storia dell'umanità, quindi sono 15.000 anni ogni minuto, meglio non perdere tempo e partire subito. Sono riflessioni che ci sono state ispirate dal ricorrere frequente del termine radici nel discorso pubblico, no? Si parlano di radici e dei diversi diritti che deriverebbero da averli qua o averle là. Ora, le radici servono alle piante per stare ferme, ma se io guardo in basso non vedo radici, vedo delle gambe e dei piedi, e queste gambe e questi piedi servono ad un altro scopo, servono ad andare in giro. Ed effettivamente, per quello che ne sappiamo noi, perché naturalmente stiamo cercando di ricostruire 6 milioni di anni sulla base di qualche osso, di qualche oggetto che studiano gli archeologi e adesso dei geni, quindi abbiamo pochissimi elementi per ricostruire una storia molto molto lunga. Per quanto ne sappiamo noi, l'umanità non è mai stata ferma. Questa è in estrema sintesi la cosa che vi racconterò oggi. Io proverei di cominciare da questa immagine che tutti avete visto, se non avete visto questa rivista, una molto simile, proponendovi di dimenticartela, perché è sbagliata. Guardando immagini di questo genere, verrebbe da pensare che a partire da antenati scimmieschi attraverso degli stadi intermedi sempre meno scimmieschi siamo diventati le belle persone che siamo adesso e non potesse che andare così. Ci sono molti dubbi, in realtà di umanità ce ne sono state tantissime, come vedremo. Siamo rimasti solo noi, il che semplifica un po' i problemi di cui parlavamo prima, perché pensate se ci fossero due specie umane in circolazione, che il repertorio di pregiudizi e di razzismi si potrebbe liberare. Ma non siamo affatto sicuri che dovesse per forza andare così. Stephen Jay Gould, per esempio, in cui sono stato indebitamente apparentato pochi minuti fa, lui era molto più bravo di me, Stephen Jay Gould diceva che se si facesse riavvolgere il film della storia dell'umanità e poi lo si potesse far andare avanti ancora, non arriveremo dove siamo arrivati adesso, arriveremo da qualche altra parte, perché molti eventi, dico casuali, che è una parola che andrebbe un po' precisata, accettata per il momento, molti eventi aleatori ci hanno indirizzati dove siamo e questi eventi probabilmente non si ripeterebbero. Forse vale la pena di ricordarsi la parte sinistra di questa immagine, in cui sotto, intorno a 7 milioni di anni fa, c'è un bastoncino verde, sono i primi ominidi, sono della gente che aveva alcune caratteristiche in comune con noi e non più con gli scimpanzé. E che conosciamo molto poco. Chi fossero tra di noi i nostri antenati non lo sappiamo, ma questi ominidi derivano delle creature più simili a noi, che sono gli australopiteci, Lucy, per chi l'avesse sentita nominare, e lì qualche antenato ce li abbiamo. E dagli australopiteci poi si separano due gruppi, un gruppo che si chiama Paranthropus, tante creature che non siamo noi, e un gruppo che si chiama Homo. E dopo cercheremo anche di capire come mai abbiamo fatto cominciare l'umanità proprio in quel punto lì. Il primo passaggio, il primo momento in cui la nostra strada si separa da quella dei nostri parenti più prossimi, gli scimpanzé, è la prima migrazione di cui parleremo. Le ho numerate le migrazioni in questa presentazione, ma è una mia numerazione, non pensate che sia una cosa stabilita, standard, così. Ed è la prima migrazione molto molto limitata nello spazio. Stavamo sugli alberi, scendiamo dagli alberi, pochi metri, ma cambia tutto. Questa cosa la sappiamo sia perché oggi stiamo su due piedi e i nostri parenti più prossimi non stanno su due piedi. Camminare su due piedi è molto raro tra i primati, è davvero una stranezza. Ci sono 250 specie di primati e solo una, la nostra, cammina su due piedi. Anche scimpanzé e gorilla si aiutano con gli arti che per loro sono anteriori e per noi sono diventati superiori. Facciamo questa cosa strana perché cambia l'ambiente, si dirà dalla foresta, c'è chi resta nella foresta e sono gli antenati degli scimpanzé e c'è chi invece si butta, si avventura e mette in moto una serie di fenomeni nuovi. Questi fenomeni sono documentati, tra l'altro, da queste impronte che vedete lì a sinistra e che sono state datate molto bene, perché il materiale vulcanico si può datare con molta precisione anche in tempi molto remoti. Queste impronte risalgono a 3 milioni e mezzo di anni fa e sono le impronte di creature bipedi. Vengono dalla Tanzania, a Etoli, e la ricostruzione che vedete sulla destra è un po' quello che pensiamo sia successo. C'è stata un'eruzione sulle ceneri ancora calde, passano non due, come in questa immagine, ma oggi sappiamo che erano in tre creature che andavano su due gambe e non camminavano a quattro zampe. Erano in tre perché c'era anche uno piccoletto, ma per capire che c'era anche il piccoletto ci è voluto un po' di tempo, perché per non sottrarsi i piedi appoggiava i piedi dove li aveva messi il padre o la madre, e quindi le impronte sono un secondo livello su quelle impronte. Sono cose che i paleontologi sanno decifrare. 3 milioni e mezzo d'anni fa, quindi, c'era della gente che camminava come camminiamo noi e stavano in Africa, perché tutte queste fasi della storia si sviluppano in Africa. Non chiedetemi perché in Africa, come succede, perché la risposta è non lo sappiamo, semplicemente è successo lì. Delle creature simili a noi esistevano in Africa e noi siamo venuti da lì. Il passaggio al bipedismo è un passaggio che è gravido di conseguenze. Questi che vedete sono da un lato uno scimpanzé, lo scheletro di uno scimpanzé, e dall'altro quello di un australopiteco, quindi un nostro antenato. E noterete subito che nello scimpanzé, comunque di tutti quelli che vanno a quattro zampe, gli organi stanno razionalmente appesi al di sotto della colonna vertebrale. Funziona tutto molto bene. Passando su due gambe succede un pasticcio, perché vedete, la colonna vertebrale è un po' si incurva, ma il peso degli organi sta in avanti, si deve stringere il bacino, sviluppiamo degli utei molto belli, abbiamo il lato B migliore di tutti i primati, ma questa compressione del bacino fa sì che le femmine umane siano quelle tra tutti i primati che hanno più problemi a partorire. Per gli scimpanzé e per i gorilla il parto è uno scherzo, e tutti soffriamo di mal di schiena perché questa struttura è una struttura meno razionale dell'altra. L'evoluzione non produce oggetti perfetti, l'evoluzione è un compromesso fra esigenze diverse. E qui, se questi sono i prezzi che abbiamo pagato, però si mette in moto un meccanismo che ci porta anche ad avere dei grandi vantaggi, perché possiamo constatare che da quel momento in poi il nostro cranio aumenta sempre di più di dimensioni, e dentro il cranio ci faccio credere. Quindi evidentemente si sono messi in moto dei meccanismi che cominciano a premiare quelli che hanno più cervello degli altri, che secondo un meccanismo che Darwin ci ha spiegato molto molto bene, se hanno un qualche vantaggio faranno più figli degli altri, figli che camperanno più a lungo e trasmetteranno a loro volta ai loro figli questo vantaggio. Il cervello umano è sicuramente abnorme nel mondo dei viventi, le barriere saranno più grandi, ma se facciamo il rapporto con le dimensioni del corpo stracciamo tutti quanti. E questo cervello grande, secondo Darwin, che aveva pochissimi elementi per giudicare, si sarebbe sviluppato insieme appunto alla stazione eretta, bipedismo e alla facoltà del linguaggio. Oggi sappiamo che quello che ha messo in moto tutto quanto è stato invece il passaggio alla stazione eretta, perché mettendoci in piedi abbiamo avuto a disposizione due nuovi organi con i quali fare un sacco di robe che gli altri non potevano fare, non possono fare, perché li usano per camminare. Quindi alla base di tutto, non so spiegare i dettagli, c'è la frazione eretta, dopodiché parte un processo che si chiama di encefalizzazione, che ci porta ad avere cervelli sempre più grandi. Non è detto che fossero sempre più funzionali, però è chiaro che avere tanta materia grigia è meglio che averne poca. E il nostro cervello prende il volo e diventa veramente grandissimo. Australopithecus, e a un certo momento in poi cominciamo a parlare di Homo. E allora possiamo chiederci: dov'è che comincia l'umanità? Charles Darwin, sempre lui, diceva che la domanda non è tanto interessante, perché dipende dalla nostra definizione di umano. E secondo me, tanto per cambiare, ce l'aveva presa. Però, in qualche modo, la domanda ha senso, e allora possiamo cercare di rispondere, di confrontarci con gli altri. Ecco, ci sono tantissime cose che noi facciamo e gli altri no. Le ha elencate in un bell'articolo un indiano che lavora in America, si chiama Jeet Varghi, che ha elencato 250 cose che facciamo solo noi. E ce n'è per tutte le lettere dell'alfabeto, le lettere dall'agricoltura, bungee jumping, ceramica, raggi X, yoga, zootecnia e in mezzo tutto quello che volete. Però dire che noi siamo quelli che fanno i bungee jumping e gli altri no, sarebbe un po' riduttiva, e comunque non è vero che siamo diventati umani quando abbiamo cominciato a buttarci giù dai ponti, al limite quello potrebbe essere interpretata diversamente. Allora, per capirci meglio, vi presento lo scimpanzé più intelligente di tutti, che si chiama Zunta, e Wolfgang Köhler, che era uno psicologo sperimentale di nascita estone e subito prussiano, che all'inizio del Novecento comincia a dirigere la stazione di Tenerife dell'Accademia Prussiana delle Scienze. E Köhler raccoglie degli scimpanzé e cerca di vedere quali sono i limiti delle loro capacità. E il più bravo di tutti, in queste foto, che non so a voi ma mi sembrano commoventi, è questo Zultan, che come vedete a sinistra ha imparato già a infilare due pali uno dentro l'altro per raggiungere una banana. Gli mettiamo delle banane in posti sempre più irraggiungibili e tirarla giù. E addirittura si fa una colonna di scatoloni per arrivare a colpire la banana. Più bravo di tutti. Ma c'è un punto in cui risulta che non ce la fa più. Se gli danno un ramo con dei rametti che è ingombrante, lui spezza i rametti con le mani e con questo ramo riesce a colpire la banana. Ma se i rametti sono troppo grossi e lui non ce la fa più con le mani, e gli danno un sasso con cui spaccare i rametti, Zultan non capisce che può utilizzare un attrezzo per fabbricarsi un altro attrezzo. Si deposisce, prende il sasso, lo tira addosso alla banana, non ce la fa. Quindi non c'è nessuna creatura al mondo, cioè i scimpanzé usano degli strumenti, ma anche certi uccelli usano degli strumenti, nel corteggiamento per esempio, ma non c'è nessuna creatura tranne l'uomo che è capace di utilizzare attrezzi per costruirsi altri attrezzi. Quindi di programmare, di progettare la costruzione di attrezzi. E invece in Africa, 2.300.000 anni fa, troviamo dei sassi come questi che sono stati, ci dicono gli archeologi, scheggiati utilizzando degli altri sassi. Questo è il momento in cui, abbastanza arbitrariamente, ma non del tutto, in fondo, cominciamo a parlare di Homo. E questa creatura si chiama Homo habilis ed è documentata in Africa 2.300.000 anni fa. I paleontologi non sono sicuri che tutti quelli che noi chiamiamo Homo habilis fossero veramente della stessa specie. È un'incertezza a cui dovremo abituarci in questa chiacchierata, perché ci sono molte cose incerte. Le ricostruzioni che vedete in queste e altre immagini vengono dallo studio di due laboratori specializzati, uno è di una francese che si chiama Dainès e l'altro di due gemelli olandesi che si chiamano Kennis, che usano le tecniche della polizia scientifica per ricostruire sulla base dell'unica cosa che ci resta di crani qualcosa dell'aspetto di queste creature, naturalmente integrando col ragionamento ciò che non ci resta, per esempio che fossero così coperti di pelo di Homo habilis. Non possiamo dirlo con sicurezza, è probabile, ma non lo sappiamo con sicurezza. Homo habilis era alto così, se lo incontrassimo per strada oggi non sono sicuro che lo tratteremmo come un altro essere umano, e per molto tempo si è pensato che fosse troppo piccolo, e col cervello troppo piccolo, aveva un cervello di 500 cm cubi scarsi, noi ce l'abbiamo di 1400 cm cubi, per poter fare troppa strada. Ma di recente, non qualche anno fa, sono state trovate tracce di creature simili a Homo habilis sul Caucaso 1.800.000 anni fa. Quindi la prima grande diaspora dell'umanità, la diaspora di gente che non era come noi, che non appartiene alla specie Homo sapiens, qui facciamo noi, comincia intorno a 2 milioni di anni fa e porta delle creature che in qualche modo sono nostri parenti in buona parte dell'Europa e dell'Asia, nelle Americhe ci arriveremo più tardi. Ecco, questo è uno schema da un bellissimo libro di Teo Chiedani delle principali migrazioni. Vedete, in certi posti ci si arrivava più facilmente perché il livello del mare era più basso e quindi si poteva andare a piedi, e arriveremo a piedi anche nelle Americhe, ma molto molto molto più tardi. Si diffondono delle creature umane e queste creature umane sono molto diverse tra di loro, si differenziano, compaiono diverse specie umane. Questa è la più famosa di tutti, il primo fossile umano trovato nel 1859, 3 anni dopo la pubblicazione dell'Origine delle specie di Darwin, l'uomo di Neanderthal. Vedete le punte che utilizzava, indubbiamente più sofisticate di quelle che usava Homo habilis, e vedete qui una ricostruzione dei fratelli Kennis in cui Neanderthal sorride. Io non so se e quanto sorridesse, ma indubbiamente nel corso del tempo siamo passati da considerare queste forme umane come brutali, e lo facevano scienziati stessi che disegnavano immagini di Neanderthal con grossissimi randelli quindi pronti a dare in testa al povero Homo sapiens, aveva una visione forse un pochino più articolata. Io penso che questo Neanderthal simpatico che sorride tutto sommato ci permetta di avvicinarci un po' a un mondo che per tantissimi versi era molto diverso dal nostro. Per esempio, era un mondo immobile. La cultura neandertaliana non cambia per 300.000 anni, cambia soltanto alla fine quando arriviamo noi, ma è troppo tardi. E quindi noi che viviamo in un ritmo di cambiamento accelerato, in questo non ci identifichiamo in loro. Ma per altri versi, avevamo delle cose in comune, e forse, anzi senza forse, abbiamo anche trattato con Neanderthal, anche se su questo poi si potrebbero dire tante cose. Ma 200.000 anni fa, 190.000 per la precisione, in Etiopia è documentato quel cranio che è molto diverso da quello neandertaliano. Dimenticavo di dire, la capacità cranica di Neanderthal a volte era più grande della nostra. Neanderthal ha i crani più grandi che si siano mai trovati, e questo aveva fatto pensare già a Huxley, un collaboratore di Darwin, che Neanderthal in realtà non fosse il nostro antenato. rappresentasse un'altra linea evolutiva, qualcuno molto simile a noi, ma che non era un nostro parente stretto. 190.000 anni fa invece compaiono delle creature che sono nostri parenti stretti, per esempio non hanno più questo grosso ispessimento sopra gli occhi che avevano Neanderthal, in cui volendo avrebbero potuto tenere in equilibrio una matita, che peraltro non avevano, quindi non se ne sono fatti niente. Giorgio Manzi, che è il migliore esperto italiano di queste cose, dice, e io me la ricordo sempre questa faccenda, che un cranio di Neanderthal di profilo sembra un pallone da rugby, e quando arriviamo noi invece diventa come un pallone da calcio, e diventa come un pallone da calcio perché si sviluppa tutta questa parte frontale dove ci sono dei centri che Neanderthal evidentemente aveva meno sviluppati, molto importanti per l'attività associativa del cervello. Tutto ciò che è legato alla vita di relazione, all'immaginazione, al collegamento, alla multidisciplinarietà, sta localizzato qua e noi ci abbiamo più cervello di loro. Loro avevano invece più regione occipitale, dove ci sono centri soprattutto della visione e dell'olfatto. È probabile che il loro mondo fosse più ricco di colori e di profumi di quanto non fosse il nostro. Ma non c'eravamo solo noi e Neanderthal, questa è la cosa più strepitosa che è venuta fuori negli ultimi anni. Qui non dovete guardare la mano, ma dovete guardare quell'ossettino piccolino che, ve lo dico io, è un frammento di falangetta di un dito mignolo. In una grotta in Siberia, dove si stavano cercando tracce neandertaliane, salta fuori quella roba lì e due denti che vedete. E capire come fosse fatto quello che portava quella falangetta è impossibile. Provateci voi a ricostruire la faccia di una persona, l'aspetto di una persona con mezza falangetta. Ma nel freddo della Siberia il DNA si è conservato perfettamente, lo si riesce a leggere, dopo vi spiego anche un po' cosa vuol dire leggere il DNA, e salta fuori che questo DNA non è né di Neanderthal né il nostro. Abbiamo scoperto una specie diversa che si chiama Uomo di Denisova, ed è la prima specie della storia descritta non sulla base del suo aspetto, della sua anatomia, ma sulla base invece del suo DNA. E anche con l'uomo di Denisova abbiamo avuto delle interazioni. Insomma, se facciamo una fotografia intorno a 150.000 anni fa, e so che Giorgio Manzi non sarebbe felice, ma non vi dico cosa c'è di sbagliato in questa immagine. Intanto ci siamo noi in Africa, vedete, in quella regione arancione che chiaramente non ha dei confini ben definiti, perché non sappiamo esattamente dove fossimo. In Europa, e come vedete anche in una parte d'Asia abbastanza significativa, c'è Neanderthal. Denisova, là in alto, la regione viola è occupata da Homo erectus, un'altra vecchia conoscenza dei paleontologi. C'è chi sostiene che Homo erectus e Denisova possano essere la stessa roba, ma Homo erectus abbiamo trovato in regioni calde e umide dove il DNA non si conserva. Quindi di Homo erectus abbiamo le ossa, ma non il DNA, di Denisova il DNA, ma non le ossa. E capire se fossero la stessa gente al momento non è possibile. E quella macchina gialla lì in basso è l'uomo di Flores, un'altra nuova conoscenza, se volete ne parliamo dopo. Intorno a 100.000 anni fa noi ci stufiamo di stare in Africa e ci spostiamo. E quando, forse attraverso una sola via che passa attraverso l'Egitto, forse io sono di quelli che lo sostengono, prima passando per la penisola arabica nel sud dell'Asia, questo è un tema su cui ancora c'è ricerca in corso, ci sono ancora idee chiare, ma succede di tutto. Tutte le altre specie umane si estinguono. Non le avremo ammazzate noi uno per uno, sicuramente, però quando arriviamo noi, come direbbe un adolescente, non ce n'è più per nessuno. E si estinguono in contemporanea anche tantissimi mammiferi di grossa taglia che abbiamo cacciato, il mammut, il rinoceronte, l'anoso, tantissime specie non riescono a reggere la pressione della caccia, facciamo una bella crisi ambientale, li facciamo fuori tutti quanti. Queste migrazioni dall'Africa ovviamente non sono avvenute in un solo momento, ci sarà stata anche gente che è tornata indietro, però questo è un po' il quadro che ci siamo fatti di questo nostro cammino. Vedete, 200.000 anni fa eravamo solo in Africa, l'uscita oggi la possiamo datare intorno a 50-70.000 anni fa con molte incertezze, ci diffondiamo rapidamente nell'Asia, un po' più tardi anche in Europa, e Neanderthal si estingue, e poi ci spostiamo in su e arriviamo nelle Americhe a piedi, perché erano collegate dalla terra, mentre per arrivare nelle isole dell'oceano bisogna sviluppare delle tecnologie di navigazione che arrivano molto molto più tardi, e quindi l'oceano lo colonizziamo negli ultimi 5.000 anni. Ma per raccontarvi questa storia non ci sono soltanto le ossa, c'è anche lo studio del DNA, che poi è il mio mestiere, e quindi due parole su che cosa facciamo. La metafora che si usa spesso per farsi capire è dire che il DNA delle nostre cellule, che chiamiamo anche genoma per indicarlo nella sua interezza, è un grande testo. È il libretto di istruzioni delle nostre cellule, dove sono scritte le cose che la cellula deve fare. La cellula in sostanza deve fare delle proteine, quindi nel DNA ci sono le istruzioni per fare le proteine di cui siamo costituiti noi, in estrema sintesi. La metafora del testo funziona in molti modi, non solo in un modo. Per esempio, il DNA è lineare, così come il DNA è un testo, ed è costituito da quattro unità chimiche, quattro molecole, che indichiamo con le lettere A, C, T e G. Quindi leggere il DNA significa fare delle reazioni che ci permettono di vedere come si susseguono queste lettere, queste quattro lettere del testo. In questo testo conosciamo anche il lessico, i geni, ognuno dei quali fa una o più proteine. Nell'uomo sono circa 20.000, li conosciamo praticamente tutti. E conoscendo questi geni siamo in grado di prevedere, guardando nel DNA, alcune semplici malattie. La fibrosi cistica, la corea di Huntington, la distrofia muscolare di Duchenne. Sono malattie interessanti, ma naturalmente non si muore di quella roba lì. Si muore di cancro, si muore di diabete, si muore di malattie neurodegenerative e si muore di malattie cardiocircolatorie. Su queste cose brancoliamo ancora del buio, perché non dipendono da un singolo gene, ma dipendono da tanti geni e tanti fattori ambientali, e lì non abbiamo ancora capito come utilizzare l'informazione contenuta nel DNA. Da questo DNA riusciamo a leggerlo tutto quanto, quindi lo leggiamo come leggeremo un testo in una lingua straniera se avessimo un dizionario soltanto. I discorsi semplici li capiamo, i discorsi complicati no. È un testo molto lungo. In ogni vostra cellula, e per dire, insomma, la dimensione di una cellula, nello spessore di un'unghia ci stanno 10 cellule in pila, quindi le cellule sono una roba piccola. Il testo contenuto in ogni cellula, identico in ogni nostra cellula, in linea di principio, è lungo 6 miliardi e mezzo di caratteri. Vedo qualcuno che fa segno di sì con la testa, secondo me non ci siamo ancora capiti. Allora, secondo la mia stima, può essere sbagliata ma di poco, i Promessi Sposi sono fatti da 1 milione di caratteri. Mi sono copiato due capitoli, li ho fatti contare da Word e poi ho fatto la proporzione. Ci sono arrivato così. Quindi significa che in ogni nostra cellula il libretto di istruzioni è costituito da una biblioteca di 6.500 volumi, ognuno grande, come i Promessi Sposi, in cui la cellula, e anche questa è una cosa che ci piacerebbe sapere ma non sappiamo, riesce a trovare nel giro di secondi o di minuti la riga giusta per fare la cosa giusta. E leggere tutta questa roba qua era costosissimo. Il primo genoma che è stato letto è costato 2 miliardi e 700 milioni di dollari. Oggi lo si riesce a leggere con 1.000 euro. Quindi questo ha portato a una proliferazione dei dati, e oggi francamente non credo che si possa dire che abbiamo capito tutti i dati che abbiamo prodotto, anzi senz'altro non lo si può dire, però intanto li produciamo sperando prima o poi di capirci qualcosa. Vi dico due o tre cose soltanto che abbiamo capito. Intanto, questa ragazza in alto che viene da... Da che continente viene? Asia. Allora faccio vedere perché di questo non parleremo tanto, non siamo tutti uguali. Ed è anche vero che guardando uno sconosciuto spesso riusciamo a farci un'idea del posto di origine di questo sconosciuto. Nelson Mandela si capisce che era africano, però ci si sbaglia anche. Quindi l'idea che sta poi alla base di tantissimi razzismi, che è possibile catalogare con facilità la gente in gruppi distinti, così, che si dice, non regge. Quella ragazza viene dall'isola Andamane, a sud dell'India, e c'è tutta una fascia dell'Asia dove la gente, appunto, ha la pelle scura, le labbra grosse, il naso largo, i capelli crespi, che in Italia sono lo stereotipo dell'africano. Ma quella è asiatica, cosa volete farci? Questo ragazzo, vedete, è molto diverso da lei, ma hanno in comune il 99,9% del loro DNA. Siamo molto molto omogenei, per gli scimpanzé non è così. Due scimpanzé della stessa foresta, se non sono fratello e sorella, sono più diversi di due persone prese in continenti diversi, mediamente. Ecco, se andiamo a guardare adesso questo 1 per 1.000 di differenze, quindi buttiamo via tutto quello in cui siamo tutti quanti uguali, tanto siamo tutti quanti uguali, e andiamo a vedere, confrontando per esempio Europa, Asia, Africa, queste varianti del DNA, salta fuori che oltre l'80% di queste varianti sono cosmopolite, cioè presenti in tutti i continenti, a frequenze diverse. Io sono di gruppo sanguigno 0, come molti di voi, se di uno sconosciuto sapete solo che è di gruppo sanguigno 0, può venire da qualunque continente, perché lo 0 sarà per tutto, è cosmopolita. Invece B è soltanto asiatico, europeo e africano, se uno sconosciuto è di gruppo B non è un indigeno americano, non è un indigeno australiano. Bene, le varianti del DNA che sono come il gruppo sanguigno 0, quindi cosmopolite, sono l'80%, la grande maggioranza. Quello 0,06% nell'Europa significa che è molto difficile avere delle caratteristiche del DNA che sono soltanto europee. Sono rarissime. Qualcuno le ha, ma sono rarissime. E quell'1% in Asia ci dice che vabbè, in Asia è un po' più facile avere caratteristiche specifiche, ma non di tanto. Invece è più interessante quel 7% dell'Africa, perché conferma che l'Africa è un continente speciale. Non solo perché da lì vengono le ossa dei nostri antenati più remoti, ma perché c'è un patrimonio di variabilità genetica delle varianti africane, che appunto sono soltanto africane, non ci sono nel resto del mondo. Io guardando questa immagine direi che se dobbiamo classificare la gente in base alle varianti del suo DNA, caschiamo in due categorie. O abbiamo delle caratteristiche tipicamente africane, quel 7%, o abbiamo delle caratteristiche geneticamente umane. L'80%, le altre sono dettagli, sono piccolezze. E se ci chiediamo quanto grandi sono le differenze rispetto al nostro vicino di casa o rispetto a uno che vive in un paese molto lontano, allora il ragionamento che si può fare è di porre il punto pari al centro la differenza fra un europeo e un africano, un europeo e un asiatico, così. Poi chiedersi appunto tra Nanni Moretti e Renato Carpentieri, che vedete a bordo di quel sofisticato mezzo di trasporto, che in qualche modo indica anche i livelli di sviluppo tecnologico dei vari continenti, ci si può chiedere quanto grande è la differenza tra loro due. Sarà 20? Sarà 10? Sarà 30? Oggi sappiamo che è 88, mediamente. Quindi il nostro vicino di casa è un po' più simile a noi di qualcuno che viene da un paese molto lontano, ma di tanto così, di un 12%, mediamente, intorno a questa media ci sono delle grandi differenze. E un esempio di queste grandi differenze sto per farvelo vedere con l'avviso che vi sto facendo vedere un caso estremo, non sto facendo vedere una cosa media, ma l'esistenza di questi casi estremi dimostra ancora una volta come l'idea di poter raggruppare gli abitanti di un certo posto in un gruppo biologico omogeneo non regge, non funziona. Il primo a cui è stato letto tutto quanto il DNA, lo conoscete anche voi, è Jim Watson, lo scopritore con Francis Crick e Rosalind Franklin della struttura doppierica del DNA. L'anno dopo, Craig Venter, che è un altro famoso genetista, diventato ricco sviluppando le tecnologie di cui parlavamo prima per la lettura del genoma, il proprio DNA se l'è fatto a casa sua praticamente, nella sua ditta. E qualche tempo più tardi la stessa cosa ha fatto un coreano che si chiama Kim, peraltro come quasi tutti i coreani, quindi questa informazione inutile che vi sto dando. Nell'articolo che Kim ha pubblicato, Kim fa dei confronti a tre tra vari genomi, tra cui appunto uno tra il suo, quello di Watson e quello di Venter. E salta fuori una cosa così, vedete in questo diagramma in alto. Questi tre hanno in comune 1.250.000 varianti del DNA, cioè delle cose che sono variabili dell'umanità, ma loro tre invece ce le hanno fatte allo stesso modo. Poi ognuno ha delle varianti che gli altri due non hanno, ma la cosa interessante è che Venter e Watson sono di origine europea e si vede. Se uno li guarda dice che questi sono europei. E Kim invece è asiatico e si vede, magari non capiremo se è coreano o giapponese, però si vede che è asiatico. Però Venter e Watson hanno in comune meno varianti del DNA, 460.000, di quanto ciascuno di loro ha in comune con Kim, 480.000 per Venter e addirittura 570.000 per Watson. Quindi uno studioso di un altro pianeta che venisse sulla Terra e volesse classificare questi tre individui troverebbe come soluzione più probabile quella di mettere insieme Kim con Watson, escludendo Venter. La seconda classificazione più probabile sarebbe Kim con Venter, escludendo Watson, e la più probabile di tutti sarebbe di mettere i due europei insieme, separando l'asiatico. È un caso limite, ma l'esistenza di questi casi limite in cui appunto un asiatico sta in mezzo a due europei, indica ancora una volta che la nostra specie è andata in giro così tanto, si è mescolata così tanto, che certe etichette semplicemente con noi non funzionano. E dicevo che questo è quello che abbiamo fatto uscendo dall'Africa, ma non ci siamo fermati lì. Nelle Americhe ci siamo arrivati forse 20.000 anni fa, ci siamo arrivati a piedi. C'era della gente 20.000 anni fa che riusciva a sopravvivere nella tundra gelata cacciando sul ghiaccio, più o meno come fanno gli eschimesi di adesso. Correvano dietro il mammut, facevano delle cose del genere. A un certo punto queste persone passano nelle Americhe. Qui c'è un altro tema molto complicato, perché nel giro di pochissimo tempo, a quanto pare, questi qua hanno attraversato l'America del Nord, l'America del Sud e sono arrivati in Patagonia. Chi gliel'ha fatto fare non si capisce bene, ma i siti archeologici del Nord e del Sud America hanno praticamente la stessa data, al punto che qualcuno ha pensato che in Sud America ci fossimo arrivati dall'Oceania, cosa che però è impossibile, perché in Oceania ci siamo arrivati ancora più tardi. E qui vi faccio vedere il risultato di uno studio che secondo me è molto interessante, perché getta luce anche su altre cose. Questo che vedete è lo scheletro di un ragazzo, si chiama il ragazzo di Malta, che è stato scoperto in Siberia, dove nella cartina c'è quel MA1, quello sarebbe lui, e è datato 24.000 anni fa. Dicevo che il DNA al freddo si conserva bene, e anche di questo ragazzo di Malta si è riusciti a leggere praticamente tutto quanto il genoma. Era gente che viveva in queste capanne fatte di ossa di mammut, questa è una ricostruzione del museo di San Pietroburgo, di antropologia di San Pietroburgo, e lì vedete in alto un confronto fra il DNA del ragazzo di Malta e tanti individui contemporanei in Europa, in Asia e nelle Americhe. Rosso vuol dire che assomigliano al ragazzo di Malta, blu che non gli assomigliano, e giallo è una cosa intermedia. E quello che si vede è che tutti gli americani, ma proprio tutti, assomigliano molto nel loro DNA al ragazzo di Malta, mentre in Siberia non c'è nessuno che gli assomiglia. Quindi questo vuol dire che la popolazione che è passata dalle Americhe era una popolazione molto vicina, imparentata col ragazzo di Malta, e che tutti gli americani discendono da lì. Ma non solo, che nel posto da cui questi provengono, oggi loro non ci sono più, c'è dell'altra gente. Io non voglio farla troppo lunga, ma la stessa cosa la si osserva in tante aree dell'Europa e dell'Asia. Vari strati di popolazione che si sono sostituiti l'uno all'altro e poca continuità attraverso lunghi periodi di tempo. Non saranno mai fermi, non saranno mai fermi. Ecco, e poi ce ne sono delle altre migrazioni che forse sono così recenti che le loro conseguenze neanche a livello di DNA si trovano. Sapete tutti quanti che nell'epoca dei grandi viaggi, delle grandi scoperte, gli europei vanno un poco dappertutto, dopodiché arrivati in altri continenti decidono che è una bella idea farci lavorare degli schiavi, e quindi c'è una migrazione soprattutto dall'Africa dell'Ovest verso le Americhe. Non volevamo avere gli schiavi in Europa, quindi si potevano avere soltanto nelle Americhe. E poi altre cose. Alcune di queste migrazioni riusciamo a studiare a livello genetico, non tanto studiando il nostro DNA, che in 500-600 anni non cambia, ma studiando il DNA di qualche creatura che invece cambia molto più rapidamente e ci permette di ricostruire questi fenomeni. Quel batterio che vedete lì è ricordato dai pilori, quello che fa venire l'ulcera. I più anziani si ricorderanno che a quel tempo l'ulcera era considerata una malattia psicosomatica, per cui se uno aveva l'ulcera doveva darsi una calmata, non aveva niente, e colpa di questo batterio. Poi naturalmente se uno è stressato diventa anche più vulnerabile. E questo batterio, che circa metà di noi ha, in certi casi può dare dei disturbi, in altri casi ce lo portiamo con noi e non ci dà nessun fastidio. Se andiamo a studiare le popolazioni di questi batteri in varie popolazioni umane, troviamo che ci permettono di rintracciare tutte le migrazioni più recenti, comprese appunto le espansioni coloniali degli europei che sono successe 500 anni fa. Sto arrivando alla fine e sto arrivando alle cose che succedono adesso. Sono questi flussi migratori, oggi si sono invertiti e c'è una forte migrazione dal sud al nord del mondo. Ma qui ormai non stiamo parlando di storia dell'umanità, stiamo parlando di cronaca. L'unica cosa che mi permetto di farvi notare è che c'è un divario piuttosto forte tra la percezione di questi fenomeni e i dati che troviamo. Un problema a cui si è accennato anche nell'introduzione. Queste frecce rappresentano nel loro spessore appunto il numero di persone che si spostano. E come vedete, le frecce che collegano un continente all'altro, con l'esclusione forse di quella che dall'Europa va, dall'Africa va in Europa, sono frecce piuttosto sottili. I movimenti principali, rappresentati dalle frecce più grosse, sono movimenti interni ai continenti, in Europa e in Asia. Però per qualche motivo siamo ossessionati dai movimenti transcontinentali, con tutta probabilità perché ci mettono a contatto con delle persone anche fisicamente diverse da noi, che ci sembrano diversi. Ma dal punto di vista invece dei demografi, questi eventi sono eventi tutto sommato secondari rispetto ai rivolgimenti interni a ciascun continente. Ma qui insomma non c'è molto altro da dire, queste immagini le conoscete tutti, se volete possiamo fare dei commenti. Io vi lascio con un commento che mi ha particolarmente colpito e che ha fatto un giornalista che lavorava all'Espresso, adesso lavora alla Repubblica, e si chiama Vlodek Golkon. Forse qualcuno di voi, Massimiliano, lo conosce. Vlodek Golkon, una volta che stavamo chiacchierando, mi ricorda questa famosissima fotografia, l'avete vista tutti, no? È la razzia nel ghetto di Varsavia, i soldati sono soldati tedeschi nazisti, e questo è un ragazzino, e naturalmente guardando questa immagine siamo attirati dal viso stupito del ragazzino, che non sa cosa gli succederà. Dal punto di vista emotivo è quello il centro dell'immagine, ma Golkon dice: guardate che la cosa interessante qui non è tanto il ragazzino, sono quelli che stanno intorno e non fanno niente, perché quelli ci pongono un problema. Nei momenti in cui noi fossimo la vittima di un sopruso come ragazzini in questo momento, il nostro comportamento sarebbe in qualche modo obbligato. Chi è libero, chi può fare in un modo o in un altro, sono quelli che osservano. E dice Golkon, davanti a questa immagine è importante chiedersi: ma io che cosa farei quando mi trovo a osservare scene di questo genere o scene di questo genere qua? Che responsabilità, quanta responsabilità sono disposto a prendermi? Fino a che punto sono disposto a stare seduto senza dire niente mentre un altro essere umano subisce le cose che subisce? Su questa domanda io non ho una risposta generale. Vi faccio vedere la copertina del libro di cui abbiamo parlato. Se vi interessa la storia delle migrazioni umane, è molto bello il libro di Telmo Piovani, Homo Sapiens, pubblicato da Nadia Agostini, che però adesso si chiama Società Geografica, per la stessa roba. Se vi interessa la parte invece sulla paleontologia, c'è un bellissimo libro di Giorgio Manzi, Del Mulino, il grande racconto dell'evoluzione umana, e la parte sulle razze in questo mio libro che la Rubiani ha ripubblicato l'anno scorso. Ho parlato troppo, ma ogni tanto. Grazie. Forse possiamo ancora, un secondo, magari abbiamo modo di rubare ancora qualche minuto, con la presenza, sfruttiamo fino in fondo, direi, la serie di stimoli, di riflessioni che sono state date da questa, mi permetto di dire, brillantissima relazione, e anche piacevole proprio da sentire, perché credo che anche se forse nessuno di noi adesso torna a casa e comincia a fare le analisi del DNA su se stesso, che forse non è il caso, meglio, ma ci apre, sicuramente ci ha permesso di vedere in maniera più ravvicinata alcune delle questioni di cui si va dibattendo e di cui ovviamente si discute molto di questi tempi. Quindi magari abbiamo anche tempo per un paio di domande, e penso che ci sia anche molta curiosità. Io, ecco, c'è una mano alzata. Volevo solo chiedere di ripetere o magari spiegare meglio quello della parassita, perché parassita, perché ha studiato in diversi. Va bene. Sì. Però accetto la critica, lo fate in fretta perché volevo farvi vedere che questa cosa è possibile, adesso che me lo chiedete, mi prendo tutto quanto il tempo. Questi ceppi di cobalto si possono prelevare con una biopsia, quindi non è proprio semplicissimo, insomma, bisogna infilare una roba nell'esofago. Infatti sono studi che si fanno adesso sostanzialmente offrendo alle comunità che si vanno campionando dei servizi sanitari. cioè li visitiamo, guardiamo i bambini, così, e chi vuole poi può sottoporsi a questa cosa, che non è drammatica, ma non è neanche tanto piacevole, non è come farsi bucare un dito per dare un po' di sangue. Quello che salta fuori è che ci sono vari ceppi di Helicobacter pylori. E questi ceppi si possono distinguere perché hanno dei DNA diversi. E per farla breve, quelle linee verdi e grigie che vedete sono tutti quanti dei ceppi che troviamo documentati in Europa e che però sono presenti in America del Nord, in America del Sud, in Africa e in Australia. Come hanno fatto ad arrivare lì? Non certo sulle loro gambe, che loro non hanno. Questi ceppi marcano le migrazioni degli europei nei vari continenti. C'è un elemento di più. Siccome il DNA di queste creature si evolve man mano che loro fanno diverse generazioni e si producono molto rapidamente, man mano che il DNA si moltiplica subisce anche delle mutazioni. E sulla base delle mutazioni che osserviamo riusciamo a stimare approssimativamente il momento in cui i vari ceppi si sono separati. Per esempio, i ceppi indicati in verde e grigio lì si sono separati intorno a 500 anni fa. E non è un caso se questa è la data in cui cominciano le grandi migrazioni degli europei. Allo stesso modo, con ragionamenti un po' più sofisticati, che adesso non vi riassumo, i ceppi presenti nelle Americhe hanno una data di separazione intorno a 12.000 anni fa. Quindi può voler dire che intorno a 12.000 anni fa l'umanità è arrivata nelle Americhe, e probabilmente vuol dire un'altra cosa, che i primi che sono arrivati non c'avevano le Helicobacter pylori, e che le Helicobacter pylori è arrivato un poco più tardi. I discorsi del genere si possono fare anche in Polinesia. La cosa interessante è che confermano una cosa che si sapeva già su base archeologica, ma è confermata adesso anche a livello genetico, e cioè che la Nuova Zelanda è stata l'ultima terra emersa di grandi dimensioni colonizzata, pensate soltanto 1000 anni fa, insomma, all'epoca dopo Carlo Magno, insomma. Dopo che ho risposto? Grazie. Allora, io volevo fare una domanda rilasciata un po' la cronaca molto recente. È uscito da, credo, qualche giorno fa su un importante quotidiano italiano la notizia che il premio Nobel Watson, te l'hai citato, di nuovo è uscito fuori una delle sue gaffe che un po' accomunano alla principi di Inghilterra, insomma, consorte reale, per cui a quanto pare i neri abbiano un quoziente intellettivo inferiore, cosa per cui è stato, credo, ritirato il Nobel. Sì, sul Nobel gli hanno l'istituto di Colston Harbor, che lui ha contribuito a creare, ha chiuso ogni rapporto con lui. L'aveva già fatto una prima volta nel 2007, quando Watson era uscito con delle affermazioni di questo genere. Attenzione, cosa c'è di sbagliato in queste affermazioni? L'ho interrotta? No, era una curiosità, insomma, tratta dalla cronaca recente, visto che da poco l'ho visto la rivista adesso sulle slide, quindi mi chiedevo, in quanto genetista, in quanto autorità nel campo, come mai fosse uscito fuori con questa ennesima? Perché nessuno nasce imparato e nessuno sa tutto. Watson ha dato un contributo fondamentale alla biologia, alla genetica, insieme a Rosalind Franklin. Non so se sapete la storia della scoperta della doppia elica del DNA, credo a queste due parole della racconto. Insomma, Watson in realtà non ha fatto lui gli esperimenti che hanno portato alla scoperta della doppia elica. Watson ha ricevuto dal direttore dell'istituto dove lavorava Rosalind Franklin, che aveva litigato con questo direttore, e lui diceva: beh, ha lavorato con me, quindi i suoi risultati sono miei. Ha ricevuto una immagine di una tecnica molto complicata, che si chiama diffrazione da GX, che la Franklin non aveva saputo interpretare e che Watson e Crick invece insieme hanno saputo interpretare come segno di una doppia elica. Quindi il lavoro sperimentale non l'aveva fatto lui. Comunque era un bravo, intuitivo, sempre con questo atteggiamento da piedino da peste, birichino, così. Sulla diversità genetica umana Watson sa molto poco, sa le cose che legge, però ha dei pregiudizi molto forti. Allora, perché non si può dire la cosa che ha detto lui? Noi non siamo ancora in grado di spiegare geneticamente le basi del diabete, che pure è una cosa semplice, cioè uno sbilanciamento dell'insulina. Eppure non abbiamo ancora capito. Non siamo in grado, leggendo tutto il DNA di un neonato, di prevedere se questo neonato da grande avrà o non avrà il diabete. Più complicato del diabete è il cancro. E anche lì, insomma, qualche cancro molto molto semplice l'abbiamo capito, perché dipende sostanzialmente da un gene, ma non sono i cancri di cui muore la gente, sono dei cancri molto rari che passano nelle famiglie. Ancora più complicato è il sistema cardio circolatorio, perché le influenze dell'alimentazione, dello stile di vita sono tantissime. Ancora più complicate sono le malattie neurodegenerative, e ancora più complicato delle malattie neurodegenerative è capire il funzionamento del cervello. Sappiamo però che nel cervello 2/3 dei nostri geni fanno qualcosa. Quindi dobbiamo cercare di mettere insieme l'effetto di 15.000 geni diversi, 13.000 geni diversi, una cosa complicatissima. Quindi se qualcuno vi dice che ha capito le basi genetiche dell'intelligenza, vi sta raccontando una fandonia. Perché queste fandonie sono così diffuse, sono così comuni? Perché sotto sotto siamo tutti un po' lontosiani, perché sotto sotto tutti quanti guardiamo uno e pensiamo: guarda che faccia da stupido, o guarda che faccia intelligente. Quindi sono delle affermazioni che ricordano quelle di alcuni politici che non nominerò, che fanno riferimento a uno strato di sentimenti, di pensieri, di pregiudizi, che può darsi anche che non siano tutti infondati. Io sono disposto a scommettere che c'è una componente ereditaria dell'intelligenza, perché c'è una componente ereditaria in tutto. Digerire o non digerire il latte ha una componente ereditaria, quindi figurarsi se non c'è. Ma questa componente ereditaria è complicatissima, tralasciando poi il fatto che cosa sia l'intelligenza non è ancora riuscito a dircelo, nessuno. Quindi intervenire dall'alto dell'autorità di un premio Nobel su questi temi con questa pesantezza non ci dice niente di scientificamente interessante, ci dice molto sul clima politico e sociale in cui questo intervento si colloca. Ed è questo che vuole fare Watson, è questo che è in testa. Allora, io il premio Nobel non glielo toglierei perché se l'è meritato. Però dobbiamo renderci conto anche che quando parla di cose che non conosce, Watson può dire delle grandissime stupidaggini. Il fatto che le ripeta a me fa pensare che non siano una gaffa, come ha detto lei, ma sia una presa di posizione chiara che rientra nel dibattito politico americano. Adesso, la cosa di cui si sta discutendo in America in questo momento non è tanto le diversità di intelligenza tra bianchi, neri e gialli. E quando deve uno Stato civile investire nella formazione e quanto gratuita deve essere l'istruzione? Perché se salta fuori che tutto quanto genetico sono soldi buttati via. Chi ha i geni giusti è bravo e quindi non ha bisogno di stimoli, e chi non ha i geni giusti invece è meglio che vada a zappare. Vi sto semplificando un dibattito molto complesso, ma si tratta esattamente di questo. Quindi c'è in ballo il budget dello Stato. C'è in ballo il tema del fatto che lo Stato debba dare degli incentivi a qualcuno per poter studiare, a qualcuno che non ha i mezzi per farlo, oppure non debba farlo. E addirittura, e questa è la posizione di Watson, che intervenire da parte dello Stato sia andare contro natura, perché i nostri diversi livelli di intelligenza, pensa lui, sono il frutto della selezione naturale, dell'evoluzione. E se l'evoluzione ha fatto gli anche più intelligenti degli altri, dando i soldi agli altri perché studino, noi andiamo a sbattere contro l'evoluzione, facciamo un'operazione che va contro le leggi della natura. Questo è il pensiero di Watson e va preso sul serio. Va preso sul serio perché le conseguenze possono essere molto serie. Buonasera. Buonasera. Dal punto di vista della psicologia evoluzionistica, la comparsa del linguaggio e dei geni che l'hanno permesso è uno dei temi più affascinanti degli ultimi anni. Lei come si immagina una comunità di ominidi o di antecedenti all'Homo sapiens nei quali compaiono i primi caratteri genetici che permettono l'inizio della costruzione del linguaggio? Che immagine ci può dare? Guardi, io penso che siano stati molto saggi quelli della Società Linguistica di Parigi, che nell'Ottocento, a un certo punto, vista la grande quantità di teorie dimostrabili sull'origine del linguaggio, hanno proibito di parlare di questo tema e hanno sancito che chiunque avesse sollevato sarebbe stato espulso dalla società, ed era la società più qualificata nel suo campo. Perché è vero che alla fine sono chiacchiere. Ci sono varie teorie, per esempio Darwin pensava che dei suoni che venivano emessi semplicemente come risposta ad uno stimolo ambientale, ho paura e dico oh, così, a un certo punto incominciano a diventare significanti, nel senso che ogni volta che uno sente un membro della comunità che dice oh, capisce che c'è un pericolo. Questa è una possibilità, e da lì però passare ad articolare le cose è più complicato. Quello che io non credo è che ci siano i geni del linguaggio. Io credo che noi siamo in grado di parlare, a differenza di tutti gli altri animali, perché utilizziamo diversamente certi geni. E questo lo possiamo dire perché oggi conosciamo completamente anche il genoma dello scimpanzé. e geni che noi abbiamo e loro che non hanno, adesso non mi ricordo quanti siano, ma stiamo parlando di poche decine su un totale di 20.000. Quindi probabilmente ci è successo quello che è successo al passaggio dai dinosauri agli uccelli. Alcuni dinosauri erano più matti, gli serviva per disperdere il calore e abbiamo le loro tracce nelle rocce. A un certo punto negli uccelli queste piume, queste penne diventano utilizzabili per uno scopo diverso e questi qua si mettono a volare. Sono gli stessi geni dei dinosauri che le producono, geni un po' diversi perché hanno subito delle mutazioni, ma geni che c'erano già prima. Io sono convinto, cioè mi pare evidente, che visto che le differenze tra noi e gli scimpanzé in termini di presenza e assenza di geni sono così piccole, noi siamo riusciti a integrare il funzionamento di geni che nello scimpanzé invece agiscono ognuno per conto suo, fino a sviluppare questa cosa sofisticata che stiamo facendo in questo momento. Ma questa è una speculazione e temo che non avremo più di speculazione, nulla di più che speculazioni ancora per molto altro tempo, perché non vedo come si possa affrontare scientificamente il problema. Premetto che la mia domanda è una persona completamente ignorante di genetica. Dico questo, nei social network qualche tempo fa era diffuso un video fatto con proprio i denti molto rifiutanti, no? Buonisti, di si crede da qualche parte, in cui si vedono queste persone, non so se lei l'ha mai visto, riunite in una stanza per un esperimento, è stato preso il DNA e si riscoprono, non so, parentele, origini varie, tipo Turchia, Inghilterra, insomma, che queste persone non pensavano di avere, si abbracciano, sono quasi parenti, ecco. Volevo capire, sono attendibili? No. Però io ho molto apprezzato l'intenzione, perché con tante cose che circolano in rete, vedere che qualcuno fa lo sforzo di produrre qualche cosa che non va nella direzione dell'odio, dell'insulto, dell'induttiva, nella direzione opposta, mi fa tanto piacere. Però se non è attendibile, sì, no, mi spiego perché. Esistono dei servizi adesso, uno si chiama 23andMe, che vi offrono in cambio di $89 o cose del genere, di ricostruire le vostre origini. Ma ricostruire in che modo le origini? Perché il nostro DNA è veramente un vestito da vecchino, in cui c'è dentro tanta roba. Le cose che si possono dire onestamente è che 200.000 anni fa eravamo tutti quanti africani e qualche tempo fa abbiamo antenati che stavano un po' dappertutto, e questo vale per tutti quanti. E allora usano un approccio grafico, in sostanza. Cosa fanno? Prendono il DNA di uno di noi e lo confrontano con un certo numero di possibili alternative, di popolazioni di riferimento. Dopodiché vi danno la percentuale del vostro DNA a seconda di quanto somigliate alle varie popolazioni, e c'è un trucchetto perché il totale faccia 100. Ma queste popolazioni non sono tutte le popolazioni dell'umanità. Per esempio, per l'Europa questo sistema, che è più seguito, prevede 4 origini soltanto. E quindi se prendete me e dite: ma questo qua è più un maori della Nuova Zelanda, un berbero del Marocco, un giapponese, oppure c'è un eschimese, alla fine probabilmente è fatta fuori che sono un berbero del Marocco, perché è il posto più vicino a dove sono nato. Ma che valore ha questa cosa? In realtà è una macchina per fare soldi. C'è un mio bravissimo collega inglese che si chiama Adam Rutherford, adesso faccio pubblicità, ha un libro del Borighiero, intanto non c'è nessuno del mulino che si offende, che si chiama Breve storia di chiunque sia vissuto, e Adam Rutherford scrive una frase che è sottoscritta in pieno: in biologia le cose sono complesse, se qualcuno cerca di farvi credere il contrario vuol dire che sta cercando di vendervi qualcosa. Ed è così. Se volete vi racconto anche in che modo, grazie a questi sistemi qua, è venuta fuori la storia delle origini ebraiche di Hitler, che non so se conosciamo. Allora, ci c'è un libro tra l'altro, quindi terza parte, non vado fuori tema. Allora, anni 90, a Long Island, periferia di New York, c'è un signore che sta terminando una sua triste cenetta in un diner, spesso questi posti molto, molto tristi, dove gli danno un polpettone col caffè. E insomma, finisce di mangiare, se ne va, sbuca dalle tenebre una figura furtiva che afferra il suo tovagliolino con cui costui si è pulito le labbra. Questa figura furtiva è in realtà un giornalista di una rivista belga. E perché? Perché va a prendere questo tovagliolino? Quel signore si chiama Patrick Stewart Houston. E perché mai uno vorrebbe avere una traccia biologica di Patrick Stewart Houston? vorrei vedere una traccia di oggi di Patrick Stuart Houston, perché quando è nato questo signore si chiamava Patrick Hitler ed era, non so se la genealogia della famiglia Hitler è molto complicata, perché il padre, che si chiamava Aunis, ha avuto figli con tre mogli differenti. Da una moglie ha avuto Adolf, da un'altra ha avuto Alois Junior. Alois Junior doveva essere una persona per bene, perché appena ha potuto è scappato in Irlanda, mettendo il mare tra sé e il fratello Disco. E si è così integrato che il figlio l'ha chiamato addirittura Patrick, il nome più irlandese che ci sia. Questo Patrick è finito in America, capirete anche voi che chiamarsi Hitler non è comodo in tante circostanze, quindi ha cambiato il proprio nome. Ma tutto questo significa che il Alois Senior, il padre, aveva un cromosoma che viene trasmesso a tutti i figli maschi, che si chiama cromosoma Y, che lui ha trasmesso ad Adolf, e dall'altro lato a Alois Junior e da questi a Patrick. Quindi Patrick ha lo stesso DNA di Adolf Hitler. E quindi questo giornalista belga voleva fare una cosa che altrimenti non sarebbe stata possibile, andare a leggere il DNA di Hitler, di cui, come sapete, non è mai stato ritrovato il corpo. Lo manda ai servizi di questa ditta. E questa ditta gli europei classifica in quattro gruppi: europei del sud, europei dell'ovest, europei del nord ed ebrei ascenaziti. Perché li classifica così? Perché se andate al sito c'è anche un blog dove quelli che hanno pagato i $99 possono fare i loro commenti. E questi commenti sono in due classi nettamente distinte. Ci sono quelle a cui è stato detto che sono quello che pensavano di essere, allora dicono: ah, che bello, adesso lo dico anche a mio cugino, che lo faccia lui, e li mettono anche in contatto con uno che ha il DNA simile al vostro. Cosa ci si dica con uno che ha il DNA simile? Io non lo so, però si vede che loro sono contenti così. Poi ci sono quelli a cui invece è stato detto: guarda, no, tu non sei quello che pensavi di essere. E allora questo è poi tutto un fiorire di analisi statistiche, dicono: ma secondo me il 12% non è significativamente inferiore al 15%, cose di questo genere qua. Siccome molti dei clienti sono ebrei che stanno in America, sentirsi dire che sono polacchi gli dà molto fastidio. Come i polacchi erano quelli che ci bruciavano lo scelto, che ci bruciavano nel villaggio, che chiede che sono polacco. E allora, come strategia commerciale, hanno deciso che tutto ciò che in qualche modo appartiene all'Europa centrale lo chiamano ebreo sinazita. Hitler, la famiglia di Hitler veniva da Linz, in Austria, Europa centrale. Vanno a fare questo test qua e vabbè, il soggetto di cui ci avete mandato il DNA era un ebreo. E la cosa arriva naturalmente subito sui giornali. Se posso raccontare un episodio personale, io mi trovavo all'epoca alla Certosa di Padura, in provincia di Salerno, era estate, mi squarcio lì nel telefono, vedo un giornalista, non mi ricordo neanche, forse del Corriere della Sera, che mi chiede di commentare la nuova notizia che Hitler era ebreo. Io gli dico: ho bisogno di riflettere, perché non la richiamo più. In realtà questa cosa ci dice semplicemente che tra gli ebrei e quelli che ne hanno sterminato 6 milioni le differenze biologiche erano minuscole, venivano dalla stessa zona d'Europa, avevano gli stessi geni, non era una differenza genetica da loro, era una differenza politica e culturale. Io volevo fare una domanda rapidissima. Siccome abitiamo a Bolzano, qui ogni 2 settimane c'è un comunicato stampa sulla mummia, ormai è notissima, tu non l'hai neanche citata, allora chiedevo se da che punto di vista l'analisi del DNA di Enzi può essere interessante, visto che... Sì, no, è interessante perché è un'altra delle testimonianze della cosa a cui ho accennato prima, cioè che in momenti diversi ci sono sovrapposti strati diversi di popolazione. Sapete a chi assomiglia Enzi? Ai sardi e in generale alle popolazioni a DNA, il DNA di Ozzy, non mi sospetto fisico, al DNA delle popolazioni contadine che si sono diffuse a partire dal Medio Oriente in Europa nel Neolitico. A questa migrazione in buona parte dell'Europa si è sovrapposta in seguito un'altra migrazione che veniva invece dall'attuale Ucraina al nord nell'età del bronzo, e in varie regioni d'Europa questi ultimi arrivati si sono largamente sovrapposti agli altri. In sostanza, in Europa, nel nostro DNA di tutti quanti noi, ci sono 3 componenti principali: una che è quella dei primi che sono arrivati dall'Africa e che, non ve l'ho fatto vedere, ma credetemi, fino a 7.000 anni fa avevano la pelle scura. Gli europei 7.000 anni fa avevano la pelle scura. Poi ci sono stati quelli che sono arrivati dal Medio Oriente nel Neolitico e poi quelli che sono arrivati nell'età del bronzo. In Sardegna l'ondata dell'età del bronzo non è arrivata. Ozzy era uno di questi, che apparteneva a una comunità agricola, e quindi il suo DNA è simile a quello di tanti europei, ma lo si trova alle massime concentrazioni in Sardegna, perché lì dopo il Neolitico sostanzialmente non è più successo niente. Se adesso qualcuno sostenesse che Ozi era nato dei sardi, cercare di capire meglio questi meccanismi, perché così non è, ma i parenti più prossimi di Ozi oggi ritorniamo in Sardegna e non qua a Bolzano, mi dispiace. Di storico. L'anno scorso sono festeggiati i 70 anni della nostra Costituzione e c'è stato un dibattito sull'eventuale modifica dell'articolo 3 della Costituzione. Alcuni genetisti hanno proposto antropologi hanno proposto di togliere il termine razza. Molti storici invece hanno difeso quel termine, che in qualche modo ricorda da dove è nata la Costituzione, anche dal rifiuto delle leggi razziali. Qual è il suo parere? Il mio parere è che hanno ragione gli storici, cioè quando hanno scritto la Costituzione, Terracini, La Pira, Sarga, quella gente lì, non si stava occupando delle cose di cui abbiamo parlato noi questa sera, ma aveva ben presente le leggi razziali. E quindi ha voluto scrivere subito all'inizio della Costituzione che nella Repubblica Italiana non ci sarebbe stato spazio per discriminazioni su base appunto razziale, del sesso, del ceto sociale, della religione e così via. Questo è quello che avevo in testa. Allora, dal punto di vista biologico, io credo che sia abbastanza scontato, almeno tra di noi, c'è gente che, soprattutto in America, non la pensa così, sta per essere tradotto in italiano un libro che io giudico pericoloso e che tra un po' circolerà, che dice che in fondo non è vero niente, ma insomma, chi si occupa di queste cose sa che per descrivere le nostre differenze il concetto di razza non serve a niente, non serve più a niente. È un dato di fatto. Ma il razzismo ha una parentela col tema della razza soltanto etimologica. Si può essere razzisti senza ricorrere a sofisticate analisi del DNA. C'è chi lo fa, c'è chi cerca, continua a cercare nel DNA delle basi per un razzismo scientifico, ma anche c'è della gente che ha superato questo stadio. Se ci pensate, dire a uno tu non puoi fare quella cosa lì perché sei nero, perché sei islamico o perché sei un immigrato, sono tre affermazioni equivalenti, di cui solo la prima è razzista, le altre due non sono razziste. Quindi non c'è bisogno di una teoria biologica per discriminare. Secondo me i nostri padri costituenti avevano ben chiaro in testa questo concetto, secondo me la Costituzione lì non va toccata. Potrebbe dire qualcosa sul nostro imparentamento con l'uomo di Neanderthal a cui lei ha accennato? Perché ho letto due anni fa che noi avremo nel nostro DNA una parte di questo DNA, ed eventualmente se si sa quali vantaggi o svantaggi eventualmente ci ha portato. Sì, ma temo di non poter limitare a qualche parola, abbiamo fatto parte, anche con lui ci dicevamo che l'avremmo toccato questo tema. Vabbè, insomma, vi faccio andare a cena tardi stasera. No, ci sono due dati di fatto inoppugnabili e tanti ragionamenti, tante speculazioni. I due dati di fatto sono A, che europei, asiatici e anche melanesiani, cioè la gente della Papua Nuova Guinea per intenderci, è un pochino, tanto così, ma costantemente più simile a Neanderthal degli africani. Quindi i non africani sono un 2-4% più simili a Neanderthal degli africani. Questo è un dato di fatto. L'altro dato di fatto è che c'è uno in Romania, in un sito che si chiama Pistera Cumoace, non so come sia la mia pronuncia romena, sto facendo del mio meglio, ma comunque un sito che si chiama così, il cui DNA testimonia che questo qua aveva un trisalto, se non sbaglio, neandertaliano. Non sappiamo che aspetto avesse questo individuo, perché non ci è arrivato lungo il cranio, e per quanto riguarda il resto del corpo noi neandertal siamo abbastanza simili, quindi non si riesce a capire che aspetto avesse. Quindi è successo che noi ci incrociassimo con neandertal almeno una volta, e c'è questa maggiore somiglianza degli europei, degli asiatici e dei papuani rispetto agli africani. La maggior parte dei miei colleghi interpreta questi due dati in maniera diversa da me. Quindi adesso io vi dico cosa dicono loro e poi cerco di convincervi che hanno torto, ma sappiate che io rappresento la posizione di minoranza in questo momento. Loro dicono che all'uscita dei nostri antenati dall'Africa ci siamo incontrati con Neanderthal, probabilmente più di una volta. In questo incontro abbiamo incorporato, chiaramente è stato un incontro dai forti connotati anche sessuali, ci siamo accoppiati con loro e complessivamente si è formata una popolazione ibrida che aveva un 4%, 2%, non si sa bene, le stime sono imprecise, di neandertaliani e un 96-98% di gente come lui, o comunque alla fine è andata così. Che cosa non mi convince di questa lettura? Io sono disponibile. Oase dimostra che questi incontri ci sono stati, ma dire che siamo tutti discendenti di questa mescolanza è un discorso ben diverso. La somiglianza maggiore degli europei e degli asiatici e degli australiani rispetto agli africani con Neanderthal la si può spiegare anche in un altro modo, a mio parere più semplice. Noi assomigliamo più agli scimpanzé che ai canguri, d'accordo? Questo non perché ci siamo fatti qualche scimpanzé, qualcuno ci avrà anche provato, ma semplicemente perché con gli scimpanzé condividiamo un tratto evolutivo più lungo, ci siamo separati prima dai canguri e poi dagli scimpanzé. Allora, Neanderthal viene dall'Africa e viene dal Nord Africa, perché per arrivare in Europa e in Asia si viene dal Nord Africa. Quando i nostri antenati sono usciti dall'Africa non erano un campione casuale di tutti gli africani, erano gente che stava nel Nord Africa e quindi erano più strettamente imparentati a Neanderthal di quanto non fosse la media degli africani, che comprende africani del nord, del centro e del sud. Mi sono spiegato? E questa cosa la dico perché poi ci sono due altri elementi che vengono discussi molto poco. C'è una parte del DNA che viene trasmessa, dicevamo prima, solo dal padre, il cromosoma Y, e una parte che viene trasmessa solo dalla madre, che si chiama DNA mitocondriale. Ora, il DNA mitocondriale e l'Y di Neanderthal sono diversi dai nostri, si riconoscono. Su migliaia di individui contemporanei studiati non ce n'è uno che abbia il DNA mitocondriale neandertaliano. E allora è stato detto, è stata una ibridazione asimmetrica, sono stati i maschi neandertaliani che sono entrati nelle nostre popolazioni e si sono accoppiati con le donne sapiens. Già questo deve essere strano, perché vorrebbe dire che quando noi siamo arrivati dall'Africa e ci preparavamo a occupare tutto il territorio di Neanderthal, gli avremmo fatto un discorsetto del tipo: guarda, a me tua moglie non mi interessa, quindi toglimi la loro anche, ma se ti interessa mia moglie, fate pure, e io i vostri figli li porterò con me nelle mie migrazioni future, quasi quasi andiamo in Australia. Se questo discorso vi sembra ragionevole, non c'è problema, a me non sembra tanto ragionevole. In seguito si studia il cromosoma Y, che è più difficile da studiare tecnicamente, e salta fuori che nessuno delle migliaia di individui contemporanei studiati ha un Y di Neanderthal. Allora, i generi possono essere tanti, ma i sessi sono due. Se sono state delle donne neandertaliane a incrociarsi con noi, ci dovrebbe essere un 2-4% di individui contemporanei che hanno un mitocondriale neandertaliano, e non ci sono. Se sono stati maschi neandertaliani, ci dovrebbe essere un 2-4% di maschi attuali che hanno un cromosoma Y neandertaliano, e non c'è. Allora, è mio dovere dirvi la risposta che tirano fuori. La risposta di gente molto qualificata, non sto parlando di somali, sto parlando di gente molto qualificata, è che probabilmente l'ibridazione c'è stata, ma poi c'era un meccanismo di selezione naturale contro il mitocondriale neandertaliano e l'Y neandertaliano negli ibridi. Ora, tutto è possibile. Il problema è che non c'è modo di verificare questa ipotesi, perché bisognerebbe ibridare oggi un Neanderthal con una di noi, meglio anche una Neanderthal con uno di noi, e vedere cosa succede ai loro figli. Quindi stiamo sconfinando un pochettino nella non scienza, nell'ambito delle ipotesi, come quelle di cui parlavamo prima a proposito della lingua, che non si possono verificare perché non ci sono i dati per verificare. Quindi a me sembra un pochettino strano, però il business dell'ibridazione sta prendendo piede, perché tutto sommato, come dire, si possono fare dei conti e dei discorsi interessanti. Io a questi discorsi interessanti però francamente non ci credo, ancora non ci credo. Poi naturalmente può darsi che saltino fuori altri dati che mi facciano cambiare idea, ma al momento questa cosa viene venduta secondo me con un'enfasi eccessiva rispetto poi alla forza dell'evidenza, che non è tanta. Buonasera. Leggendo il suo utilissimo libro e poi anche altri circa nello stesso periodo, ho notato un inciso allo stato attuale delle ricerche. Quello che le vorrei chiedere, oltre a notare questa effervescenza insomma di studio, è: ma ci sono, come è stato all'epoca delle grandi scoperte archeologiche, attualmente in giro di gruppi di studio che cercano disperatamente nelle caverne resti di altri denisoviani, genomi, ossa dalle quali poter trarre informazioni? Sì, è un'industria in grande sviluppo, e forse non vorrei aver dato l'immagine di un terreno in cui si può dire di tutto. Cioè, è vero che ci sono regolarmente dei nuovi dati che arrivano e ci costringono ad aggiornare il nostro punto di vista. Non è vero, secondo me, che ogni volta che è stato fuori un nuovo Neanderthal ci cambia il mondo. È un tentativo di enfatizzare certe scoperte che serve a rendere queste scoperte, pubblicarle su una rivista migliore, avere eco sui giornali, però alla fine può dare l'idea che il nostro terreno è assolutamente instabile, qui basta un passo nuovo per farci cambiare la nostra visione del mondo, e non è così. Io insisto molto allo stato attuale delle conoscenze, perché mi sono reso conto in occasioni come queste che molte persone pensano che la scienza sia una fornitrice di certezze. E sono, invece, la mia condizione è che chi ha bisogno di certezze deve rivolgersi alla religione, lì perché non ha certezze, perché la scienza è continuamente impegnata ad autocriticarsi, a smussare degli angoli, a trovare delle risposte che però a loro volta generano nuove domande. Quindi è bene sapere che le conoscenze scientifiche, che poi ci sono stati fatti progressi innegabili sia a livello di conoscenze che a livello di tecnologia, rappresentano comunque un equilibrio precario che può essere modificato, che nel corso del tempo necessariamente si evolve. E detto questo, poi allora è bello anche ragionare sui risultati delle ricerche. Su Denisova sono state fatte delle cose strepitose. Il gruppo di Svante Pevo, che è il guru del DNA antico, persona di rara antipatia ma di grandi capacità, il gruppo di Svante Pevo è andato a studiare questa grotta di Denisova, e a un certo punto hanno provato a prendere l'equivalente di un cucchiaino da caffè del detrito della polvere che si trova lì dentro, e sono riusciti a tirarci fuori del DNA, che sia la DNA ambientale, un po' quello che fanno anche nelle indagini forensi adesso, e quindi loro sono in grado di documentare, e questa è una cosa a cui io credo, insomma, non vedo perché metto in discussione, che in determinati periodi di tempo che vengono identificati su base stratigrafica, la grotta è stata occupata da denisovani o neandertaliani. Quindi si possono fare delle cose strepitose. È chiaro che poi tra il dato e la nostra interpretazione finale c'è un passaggio, e un passaggio di natura intellettuale, si interpreta il dato. Tutte le cose che vi ho raccontato oggi non sono i dati, sono le nostre interpretazioni, e quindi lì c'è lo spazio per commettere errori, per prendere degli abbagli, o anche per sviluppare delle teorie che sono coerenti con i dati di un certo momento, ma che poi dopo 10 anni possono anche tramontare. Una piccola curiosità che riguarda l'Oceania e la popolazione aborigena. Un po' di anni fa, insomma, una ventina di anni fa, la datazione, dalle mie letture personali, la datazione dell'arrivo dell'uomo in Oceania era intorno ai 40.000 anni, e poi man mano che è passato il tempo e con il perfezionamento della ricerca sia genetica sia quella ambientale, cioè andando a datare la presenza man mano questa presenza è stata retrodatata. In passato a 50, si parla già di 60, ma potrebbe essere molto molto, cioè non molto di più, ma insomma quasi a 100.000 anni. Per lei che sarebbe un problema? No, anzi, io sono tra quelli che sostengono che c'è stata la prima uscita attraverso la cosiddetta rotta meridionale, per vari motivi, uno dei quali è appunto la presenza di questi siti molto antichi in Australia. Spero di riuscire ad arrivare, eccola qua, no, forse quella prima si vede meglio, eccola qua, ci sono due frecce lì. Che vengono fuori dall'Africa. Sulla prima non ci sono dubbi, insomma, della gente uscita di là sono quelli che hanno incontrato le Neanderthal sono quelli che un po' si sono ibridati con Neanderthal, la discussione è quanto l'hanno fatto. Ma quella freccia più in basso è una freccia più antica, perché ci sono dei manufatti, purtroppo non delle ossa, ma dei manufatti umani nel sud dell'Arabia, che con un po' di certezza vengono datati a 120.000 anni fa. Se quella è stata un'uscita che non è terminata in Arabia, ma è proseguita verso l'est, allora anche le datazioni intorno a 80.000 anni fa non mi provocherebbero nessuna emozione. Mentre se escludiamo l'uscita per la rotta meridionale, come fanno certi colleghi rispettabilissimi, dibattiti aperto, allora giustificare queste date così antiche in Australia diventa un po' difficile. Euro, cosa ti riusciamo a vedere? Adesso ti chiedi cosa possiamo fare con quei 1000 euro. Con quei 1000 euro ci si riesce a leggere tutto quanto il DNA, però se lo guardiamo io e lei così, alla fine leggiamo non ci dice niente. Allora ci vogliono dei sistemi bioinformatici per andare a guardare nei geni, che sono una piccola parte del nostro genoma, perché i geni non coprono neanche il 20%. 20-25%, dipende da come chiamiamo cosa chiamiamo un gene, è troppo complicato da spiegare. E poi c'è tanta roba che non serve a niente nel DNA. E se uno non ha un problema specifico, tipo nella mia famiglia c'è una certa malattia, è noto il gene per quella malattia, voglio capire se posso trasmetterla ai miei figli oppure no, in questi casi allora non si va a leggere tutto quanto il DNA, si va a leggere quel pezzetto lì, così. Lo si legge tutto quando si sta cercando di fare delle analisi come quelle che facciamo noi, insomma, sull'evoluzione umana, oppure per questi tentativi finora non coronati da grande successo di andare a guardare tutto quanto il DNA sperando di trovare i geni del cancro, dell'autismo, eccetera. Però non sono tentativi che non hanno funzionato molto finora. Ampia mole di domande e di risposte. Ringraziamo ancora una volta il professor Guido Barbugliani per questa, credo, bellissima serata, e speriamo di averlo in futuro ancora qualche volta, lo disturbiamo, proviamo a portarlo a Bolzano, anche se parla, ci dice che è sardo, è contento qualcuno in sala, perché se qualcuno è sardo in sala, quindi rivendica con orgoglio la proprietà della mummia. No, la proprietà del padre intero. Però da questi tempi ci si allarga. Ringraziamo ancora per la bella serata a tutti quelli che hanno collaborato, in modo particolare voglio ringraziare Esther Redolfi, che è impeccabile e sempre precisissima nello svolgere un ruolo di affiancamento dei nostri gentilissimi ospiti. Grazie ancora, buona serata e alla prossima.